왔어. 네, 어쨌건 이제 자가지고 근데 le devo ricordare che avendo lei assunto la qualità di indagato, anche semplicemente di indagato, un procedimento comunque anche indagato, perché è stata elevata l'imputazione, imputato in un procedimento collegato con quello di oggi, la sua deposizione non può essere raccolta nelle forme, come dire, ordinarie del vero testimone, ma nelle forme assistite previste dal codice all'articolo 210. Comma 6, che prevede altresì l'avvertimento da parte mia della facoltà da parte a lei riconosciuta dall'ordinamento della facoltà di non rispondere. Ritiene necessario consultarsi con il suo assistito, all'avvocata? Assolutamente no. Assolutamente no. Allora, dato questo avviso, lei che cosa intende fare? Devo rispondere, assolutamente sì. Devo completare l'avviso nel senso che se non si avvale della facoltà di non rispondere, assume l'ufficio di testimone nella sua integralità. Quindi sarà credo di... Assolutamente intendo rispondere. Va bene, grazie, ne prendiamo il verbale. Allora, l'avvertimento è stato già dato, la prego di leggere questo. Consapevole dell'altro. Possiamo dare cortesemente al verbale atto che la deposizione del signor Masi è assistita dall'avvocato Carta. Prego. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Grazie molto, comune con noi già lo conosciamo, per completezza il luogo e data di nascita. Palermo 19-12-70. Grazie, adesso per leggere la fortuna delle domande del pubblico ministero. Prego. Quasi, buongiorno. Buongiorno. Nel giovedì 2014, lei in momenti alla ricerca fiducia, si è presentato a un commissariato di pubblica sicurezza di Palermo per denunciare i contenuti che riteneva direttamente denigratori della sua persona e del suo collega di un comunicato stampa che è stato tenuto dal coordinatore Sottili e che è stato pubblicato sul sito web di Paranava nella tarda primavera diciamo, del 2013. Ricorda questo particolare, questa vicenda? Sì, lo ricordo perfetto. Ecco, in sussidio della memoria, perché non c'è chiarezza, chiedo di grande voglio mostrarle il documento che dovrebbe essere raccolto, affiliato alle pagine 98 e seguenti del fascicolo. Sono vicino per mostrarle il buco 98 e seguenti. Sì, è quello, anche se ho dimenticato gli occhiali, ma ho letto benissimo, sì, ma credo sia questo, sì. Sì. Sì. Anche la pagina seguente? Sì, prego, prego. Posso? Sì, certo. Io sinceramente l'ho letto soltanto una volta anni fa, non l'ho più riletto, ma... Vabbè, ricorda che fosse questo. Sì, questo, sicuramente. Sì, in questo comunicato stampa si menzionano alcuni episodi, che ora vi riporto, posso chiamare presente sufficientemente gli episodi che sono chiamati, gli episodi in questione, a sussidio della memoria, perché avete difficoltà a vedere. Certo. Allora, uno degli episodi in cui lei avrebbe incontrato Matteo Messina Denaro si sarebbe nascosto sotto la siepe per non essere scoperto, cercando di prendere le parole usate. Un altro è quello in cui il suo collega, cioè Fiducia, cercando il covo di Provenzano, avresti visto un uomo armato, no, il suo collega, il suo Fiducia, avrebbe visto un uomo armato vicino al covo di Provenzano e se ne sarebbe data gambe. Un altro è il fatto che lei abbia svolto, lei e il suo collega, la lotta a Cosa Nostra, masticando qualche relazione di servizio con vecchie notizie. Un altro ancora è il fatto che fosse più interessato nel DMV, la comoda vettura tedesca, dice, che alla persona di Provenzano. Ora, lei ricorda questi singoli episodi, se abbiamo qualche riferimento a qualche vicenda concreta che lei vissuta? Sì, lo ricordo. Sì. Ovviamente ricordo gli episodi in cui il generale Sottili mi menziona. Ricorda, diciamo proprio ordine. Sì. Lei aveva chiesto al colonnello Sottili di essere inserito nella sezione 4 catturandi, erano 4 catturandi? Esatto, sì, nella quarta sezione catturandi, sì, lo chiesi sin dai primissimi giorni del suo arrivo. anche se, a dire la verità, le mie indagini, al momento dell'arrivo del colonnello Sottile, le mie indagini di iniziativa sulle cerchie provenzano erano già iniziate, protocollate e dirette già dalla direzione di struttura antimafia di Palermo, già da qualche mese. Sì, erano già in corso delle indagini, al momento dell'arrivo del generale Sottili a comandare il reparto operativo, le mie indagini erano già decollate con la collaborazione sotto la direzione della direzione di struttura antimafia di Palermo e la persona del dottor Prestipino. Sì, e comunque le varie sezioni in qualche modo Palermo collaboravano, al di là dei singoli maestri, collaboravano nella lotta, diciamo, con la nostra, giusto, nella ricerca degli abitanti in generale. Sì, esatto, esatto. C'è una collaborazione molto stretta fra tutti. Sì, cioè qualsiasi sezione avesse avuto, aveva avuto, ma era già avuto anni prima che io arrivassi nel 2000 a Palermo, qualsiasi sezione a livello investigativo avesse avuto una notizia che riguardasse la cattura degli abitanti più o meno di rilievo, poteva avere, con il beneplacito ovviamente della DDA, la prosecuzione dell'indagine una volta data notizia dall'autorità giudiziaria. Poi era appunto era nel mio caso noi già avevamo avuto dei decreti a firma della DDA di Palermo che riguardavano esplicitamente la cattura di Provenzano Bernardo. Come lei era ufficiale di PC nel reparto operativo di Palermo, quindi con la veste delle qualità di ufficiali di polizia giudiziaria del reparto operativo di Palermo, comunque nel caso avesse avuto elementi significativi era tenuto con preciso dovere suo giuridico nazionale a comunicare, a chiedere. Assolutamente sì. Senta, sì. Devo precisare però che in particolar modo la ricerca di Provenzano, la prima notizia di reato all'autorità giudiziaria venne da me fornita, per la cattura di Provenzano, venne da me fornita ai miei superiori, ma non venne redatta e firmata da me, perché purtroppo, nonostante poi la notizia di reato e le indagini che si sono sviluppate sotto la direzione della DDA di Palermo, soprattutto sotto la direzione del dottor Prestipino, non venne firmata da me perché il paese in cui io ebbi notizia della presenza di Provenzano era il paese di origine dei miei genitori, e quindi per evitare eventuali ripercussioni da parte della malavita e dei mafiosi che in quel momento, lo dirò dopo perché poi è risultato veritiero, lo dirò dopo con elementi di fatto, che Provenzano soggiornasse in quel paese anche protetto da personaggi, questo paese che lo ricordo si chiama Cimina, 40 km da Palermo, era il paese di origine dei miei genitori, non quello in cui noi abitavamo in quel periodo, ma era il paese di origine dei miei genitori, e quei contadini che tenevano Provenzano e lo portavano a spasso, ovviamente conoscevano tutti i miei familiari, conoscevano me. Di sicurezza fece relazione del tutto con l'altro sottufficiale, ma poi ebbi sempre io il contatto con i magistrati e con i miei superiori. Quindi lei aveva individuato veramente faceva succintamente individuare i singoli episodi, sì. Aveva individuato un casolare a Cimina, si chiama il posto dove poteva probabilmente possibilmente soggiornare Provenzano, e proposte delle strategie di indagine a Sottili, cioè interessò a Sottili, come un po' le cose. Esatto, al momento dell'arrivo di Sottili le indagini vennero svolte sia dalla mia squadra del comando provinciale del reparto operativo, che in quel momento aveva iniziato a comandare il generale Sottili, che con la squadra della prima sezione del ROS, da qualche mese credo era andato via, da qualche mese è tornato via il capitano ultimo, e il posto venne preso dal capitano Valerio. E le indagini vennero inizialmente condotte e eseguite da me, sotto la direzione del dottor Prestipino. Poi c'erano dei collegamenti con indagini vecchie, queste sì, vecchie del ROS, e quindi il dottor Prestipino ci disse appunto che dovevamo svolgerla insieme al capitano Valerio del ROS di Roma, che faceva la distanza assolutamente a Palermo per la ricerca di Provenzano. E quando venne mi sembra che il professore avrebbe chiesto una cosa diversa, no? se aveva riferito, no? Sì, esatto, se aveva riferito sì. Sottili della giudizia, esatto. Sì. Riferito a Sottili di questo sì. Casolare? Sì, sì. Vabbè, grazie. Questo è stato. Sì. A cosa dice riferimento Sottili quando parla in questo documento stampa che ho letto nel fatto che lei si nascondeva sotto una siepe per non essere visto quando montava il suo compagno teso Mattia Messina Denaro? A che circostanza precisa? Dunque, si riferiva sicuramente a un'indagine che ebbe inizio dal pedinamento e dall'ascolto delle intercettazioni di Mesi di Francesco, che era già stato precedentemente indagato, credo dal GIGO, posso pure sbagliarmi, non dal ROS, credo dal GIGO della Finanza o da qualche altro reparto del Ministero di Palermo, per quanto riguarda la cattura di Matteo Messina Denaro. Tra parentesi, anche le sorelle di Messi Francesco avevano già, se non sbaglio, una delle due era già stata arrestata per il favoreggiamento di Matteo Messina Denaro. E nella prosecuzione delle indagini, che erano svolte da me, ci trovammo a controllare le intercettazioni e i pedinamenti tramite GPS, gli spostamenti tramite GPS, non pedinamenti, di Messi Francesco che da Bagheria, nella serata, sinceramente non ricordo se era un Natale o se era un Capodanno, una serie di Natale o di Capodanno, che si spostò stranamente con giri della macchina su cui avevamo sia l'ambientale che il GPS, si spostò in maniera strana dal comune di Bagheria a quello di Misilmeri, una zona di campagna. Spostamenti del soggetto sospetto. Indagato nell'ambito di intercettazione della DTA. Che si era spostato in questo paese, ma prima di andare in questo paese nottetempo, di sera, era andato proprio di fronte la macelleria di un altro arrestato per il favoreggiamento del numero 2 di Cosa Nostra. Siccome c'erano delle microspie a bordo di quella macchina, probabilmente perché c'erano i finestrini abbassati, noi, una volta che il Messi uscì dalla tua vettura, si inizia a dialogare con questa persona davanti alla macelleria. Ma secondo me noi tutti siamo così, la cortezza del soprano, quindi se non ti dico le sedicine istitutive, se le cose, a me interessa sapere quando è successo che lei abbia visto la chiave seminario sera e no, io non in quell'occasione. Aver pensato di aver, quale cosa è stato strumentalizzato, se vuole ipotesi di accusa, questa. Sì, assolutamente non era questo l'episodio in cui io vidi Matteo Messina, in cui relazionai a Matteo Messina. Cioè, questo. In sostanza io non disse aver visto Matteo Messina. E di essere. Però cosa no, io in questa occasione dissi che appunto c'era stata la segnalazione di questa stranissima ipotesi che in questo casolare tra i comuni di Bagheria e Misilmeri ci fosse appunto da proseguire l'indagine con un ambientale in questo casolare, e io segnalai la presenza al buio in questa situazione di campagna aperta in cui completamente al buio all'interno di questa casolare vivi le persone, ma assolutamente non Matteo Messina Denaro. Però questo è collegato a Matteo Messina Denaro? Sicuramente sì, perché fu il favoreggiatore, il fratello della favoreggiatrice di Matteo Messina Denaro ad andare nottetempo in questa casolare incontrando al buio queste persone. Ma della siepe, in che senso si è nascosto? Sarebbe nascosto sulla siepe? Ma siccome effettivamente lì andai praticamente da solo, proprio per evitare, da solo con la collaborazione di un altro appuntato che rimase a bordo della macchina. Però anche tu in macchina, lei chi? Io e l'appuntato Lauri. Lauri, sì. Io non dissi mai né al colonnello né al capitano né a Lauri avrei visto Matteo Messina Denaro. Lì mi sono nascosto ovviamente, primo per non bruciare l'indagine, se io avessi visto Matteo Messina Denaro allora lì mi sarei comportato diversamente. Non c'è niente da vicenda, io le ricordo bene, però, sì. Però si sono nascosti vedendo che cosa in questa zona di campagna. Allora, io andai lì anche se il mio capitano, il colonnello, mi dissero che lì non c'era assolutamente nulla, non c'era un'abitazione, non c'era un contatore, non c'era assolutamente nulla. Io intestardito andai a verificare nottetempo perché la situazione che si è venuta a creare in quel reparto operativo era veramente anomala per me. andrei a verificare lo stesso. Andando a verificare, vidi subito, nottetempo, il lampeggiare di un contatore Enel. E quindi andai ad effettuare la lettura del contatore Enel. Mentre nottetempo effettuavo la lettura del contatore Enel con una lucina fioca, si spalancò tra la siepe. C'era una casa, un contatore Enel, una casa, e poi vidi anche, credo, anche delle autovetture all'interno. Quindi si spalancò nottetempo questa. Sì, nel giardino era una villetta in campagna, una casetta in campagna, dove c'era questa siepe a protezione del visuale. Questo, in una zona che si pensava non ci fosse niente, neanche il contatore. Assolutamente, sì, il capitano mio mi disse, è inutile che perdi tempo, lì non c'è niente, da 20 giorni, nel periodo in cui mi avevano mandato in ferie, forzatamente in ferie, mentre il capitano mio mi assicurava che lì non c'era assolutamente niente, appena io ritorno dalle ferie vado a fare questo controllo, vado a verificare con la posizione esatta del GPS che lì c'era questo contatore e scopro che oltre a esserci un contatore e un'abitazione, all'interno di notte, sera, tardi si spalanca la porta e quindi ci sono questi soggetti tra i quali io ovviamente non avevo assolutamente riconosciuto le sembianze di qualcuno che potesse somigliare, voglio dire, a Matteo Sia Denaro. Il collega Lauri è rimasto in macchina. Il collega Lauri era rimasto in macchina per non fare transitare l'autovettura nei paraggi, io andai in campagna. Ma secondo me piano. Tu hai avuto pericolo per esempio? Sì, io sì, cioè, assolutamente sì. Ci interessa? Perché quando si dice che si è nascosto sopra siepe, a cosa fai riferimento? Ma sì, io ero da solo, il mio appuntato, l'appuntato era assolutamente lontano. Io andai lì. Se dovete pittire il suolo, dovete fare qualcosa per non farsi vedere. Sì, sì, mi sono dovuto nascondere perché avevo. Sì, la tengo a puntualizzarlo anch'io, Presidente, sì. Perché c'è lì la paura. Ovviamente un po' fidandomi, un po' non fidandomi, io andai a lasciare la puntata anche lui armato lontano. Lei da solo? Io ero assolutamente da solo e nel momento in cui arrivo lì e vedo che al contrario di quello che mi dicono sottili e miulli, arrivo lì e trovo addirittura un caseggiato all'interno. E vedo che tutto è buio, mentre si spalanca la porta, sicuramente mi avranno anche sentito, e questi personaggi si avvicinano al cancello per vedere cos'erano quei rumori, quei passi, perché sinceramente la situazione era un pochino strana. Ovviamente non tengo a nasconderlo, mi nascosi immediatamente per non farmi vedere. Loro erano collegare distante, non potevo assolutamente chiamare, cioè, mandare un messaggio perché mi avrebbero scoperto. Ma sì, questa vicenda, lei ha fatto una relazione di servizio, sì. Questo dimostra, quindi sì. Posso ci riesco, soltanto qualche secondo in più. Sì, questa. Ho cercato di depositarla, ma quella non è la prima relazione che feci, perché la prima era abbastanza aspra nei confronti sia del colonnello Sottili che nei confronti del capitano mio, il comandante della mia sezione, proprio perché inizialmente loro, anche telefonicamente, i ragazzi che lavoravano nella mia sezione, mentre io ero a Napoli in ferie, i ragazzi mi avevano già informato di questo andamento strano, cioè che il capitano Miulli e il colonnello Sottili non volevano che si andasse a fare questa roba, questo controllo. Sì, sì. Questa relazione di servizio, su cui prima di questa ce n'era un'altra. Ce n'era un'altra assolutamente molto più dettagliata di questa. Sì, perché poi non è stata quella, cosa è successo? Perché praticamente per la relazione di servizio era un attacco. Un atto veramente ostile, doveroso tra l'altro, nei confronti dei miei superiori, proprio perché da quando accade il fatto a quella data lì sono passate penso un paio di settimane, in cui mi era stato assicurato di andare io in ferie, io volevo rinunciare alle ferie da quando è tutto quel fatto, perché volevo considerare l'iniziativa. Quindi quando disse queste cose volevo rinunciare alle ferie, non è stato consentito di rinunciare? Non mi è stato consentito di iniziare questa attività di indagine, che era sicuramente, sarebbe stata di posizionamento di telecamere e di microsferite. Ma perché così tornato a cambiare le posizioni e farla così più, diciamo... Perché quello sarebbe stato un atto, cioè, effettivamente, la magistratura che avrebbe letto quella relazione di servizio, avrebbe capito che c'era qualcosa che non andava. E quindi mi costringo a fare questa qui molto molto più morbida e blanda. Questa riflette anzi diciamo generico i fatti successivi. Sì, mi chiedo la posizione, Presidente, perché una direzione firma sì. Andiamo oltre, Presidente. Poi acquisirò il parere delle parti in cosa ci vediamo. Allora? Senta. La comunità che ha di questi episodi di vedere in commissione denaro di poterlo aver visto probabilmente di mettere al corrente in questi stessi periodi? Sì, io feci una relazione di servizio in cui scrissi, non ricordo male, ma quello era la sostanza di aver visto una persona con le stesse sembianze somatiche di mettere insieme denaro, sì. Ma non in questa, non è stata in questa data, non in questa occasione. Sì. Inizialmente, cioè, quando arrivò il colonnello Sottili a andare alla stazione a prendere il posto di un altro ufficiale, ripeto, con indagini su Provenzano già iniziate, su cui poi i riscontri oggettivi furono che Provenzano effettivamente... Sì, praticamente c'è diciamo, un atteggiamento ostile, perché qualsiasi attività di indagine elementarmente che riguardasse queste situazioni qua, prevedeva almeno dei pedinamenti. Pedinamenti che l'80-90% delle volte non venivano eseguite, nonostante io e i miei ragazzi. Senta, quella volta che può aver visto l'attivista denaro e quello che viene ritratto in questa diversa relazione di servizio che è data 8 maggio 2004? Posso? Sì, stia prego, la signora. Grazie. Evidenziato la parte in cui parlo di tratti somatici da chiamare insieme denaro. Sì, è questa. Sì, è questa. E qui tra l'altro non si vede tanto, ma nell'originale sicuramente sì. C'è un timbro che una firma del comandante del capitano Nini della sezione, su cui dove io pregai effettivamente di mettere un timbro per ricevuto. Io misi il timbro, sì. E gli si. Di mettere neanche la firma per ricevuta. Nell'originale, se, non so se ce l'avete voi, ma forse Palermo, non saprei, si vede chiaramente che c'è il timbro del capitano Michele Miundi senza la sua firma. Sì, non fu vistato il suo timbro? No, assolutamente. E qui ci fu un grande alterco. Fu inviato in procura per i sacchi, allora scrive quando... Io ero sicuro... Sì. Scusa. Fu inviato in procura per i sacchi, ha verificato se sì, se no, ha chiesto... Io chiesi esplicitamente di portarla direttamente a mano. Io insieme al capitano o al colonnetto di andare a parlare direttamente col referente per le indagini che riguardavano la cattura di Matteo Messina Denaro, cosa che come sapevo l'altro non venne mai eseguita, ma loro mi assicuravano che questa relazione di servizio era andata a finire nelle mani dei magistrati che si occupavano della cattura di Matteo Messina Denaro inizialmente. Poi mi dissero, altre situazioni che non volevano. Esplicitamente il capitano Miglio mi disse che il colonnello Sottili non voleva iniziare questa attività di indagine con il dottore Russo, che era in quel momento il referente per la ricerca, il coordinatore per la ricerca delle indagini di interesse denaro, perché altrimenti non le avrebbe fatte seguire a noi. Io dissi esplicitamente che, cioè, senza nessuna smania di protagonismo, è soltanto di informare il magistrato che è in quel luogo, in quel posto, in quell'orario, è con quegli elementi che io assolutamente lì indicai, con degli espliciti riferimenti assolutamente conducenti alla ricerca di mantenersi denaro, all'eventuale cattura, informare almeno il magistrato, non di indagare io in prima persona. Complessivamente Io l'ho saputo molto, sì, molti anni dopo. Ho saputo tutti i particolari? Forse un po' a corredo dell'imputazione, ma manteniamoci all'interno dell'imputazione. Che io sappia comunque dell'imputazione. Se me... Sì, chiedo scusa. Sì, che io sappia non venga... La necessità di esposizione. Che io sappia non venga. Mi sembra abbastanza... Cioè, che sappia, che io sappia, diciamo, no? Sì, mi sente comunque preciso, stringatamente, comunque, che io sappia, quella resa in servizio nelle mani della DDA di Palermo, no, arrivò, ma... Sì, niente, giusto per l'esperimento, vorrei dire che con lei ci fa quasi finito. Veramente ci appunto, qui si dice che anche in base alle cose di fiducia si invitavano a ripresentare gli stessi notizie rimasticati in vecchi del stesso video, poi ci sono queste cose nuove, di ciò che ci tengono a presentare, ma veramente senza nomi di magistrati, non ci interessa niente. Sì, sì, quindi in generale, in base a questa chiamata dell'ausilio all'indagine anche denominata talpa, sempre in questo contesto di ricerca di latitanti, in qualche modo? Io venni chiamato esplicitamente a, sia da Sottili che da Gnulli, ad assumermi la responsabilità della, del posizionamento delle microspie all'interno della clinica Santa Teresa. E quindi di coordinare le cose. Indagine talpa, sì, non dell'attività di indagine precedente, scusate, sì, in quell'occasione. Sì. Anche perché fu invitato anche a delegato che chiamato anche a rifiutare i pigmenti con la sua auto? Sì, con la mia motocicletta sicuramente, che è andata in due. Sì. Sì. Sapete mostro velocemente delle notazioni di servizio per dire. Asserite, osservazione, controllo e pigmento, tutti a suo figlio, tutti dall'anno 2004, tra avere velocemente riconoscere l'autenticità, non i contenuti, sono tutte annotazioni. Infatti, sostanziale, cioè, ci deve essere partecipato e si è relazionato quello che lei personalmente ha visto in questi pigmenti, fatti da lei. Esatto, sì, questo è quello di cui questi pochi più che pedinamenti, alcuni la maggior parte sono. Servizi di osservazione, la maggior parte. Sono attività inerenti sempre dal centro di tanti ospedale professionale? Sì, almeno le prime relazioni che io ho letto riguardano proprio quel casolare, che erano propedeutici all'installazione di una telecamera su quel casolare dove io vidi quelle persone di notte quando mi nascosi. Sì. Che poi anche lì non venne seguito nessuno. Senti, vengono acquisiti ugualmente a dimostrazione, a dimostrazione dell'attiva partecipazione del MASI a questi centri di abitanti, state lo sapete. Ci sono altre domande da aggiungere. Allora, sempre più semplicemente, ieri ritenuto che fosse offensiva nel confronto della sua professionalità, della sua persona, il contenuto di questo comunicato stampa. Sì, guardi. Cioè le cose della vita, umanamente. Sì, guardi, ma non solo a Biglia, cioè io fui tempestato di telefonate, colleghi che scherzando, ridendo, mi prendevano in giro perché cioè, che loro sapevano quanto io avevo dato. Ma assolutamente sì, perché nel momento in cui la notizia viene divulgata su un quotidiano, seppur online, ma che aveva avuto già un bel po' di visualizzazioni, non soltanto i civili, ma i carabinieri, io ho frequentato due corsi, sia quello da carabiniere che quello da sottufficiale, quindi bene o male, già soltanto i frequentatori di corso, bene o male, si parlava di 2-3 mila persone che mi conoscevano. Poi purtroppo dico per certi versi, per quanto riguarda la mia situazione è diventata pubblica, il mio pubblico, e quindi anche parecchia gente non nell'ambito dell'arma dei carabinieri. Mi aveva sottolineato insomma, sì, troppo perché. Non mi sarei mai aspettato, io ho sempre sporto denunce e querele nei confronti di questi ufficiali, non ho mai esternato, mai e poi mai esternato pubblicamente nulla di ciò che penso e di quello che ho vissuto soprattutto con quelle indagini nei loro confronti. Quindi mai e mai mi sarei aspettato che il mio superiore andasse sul panorama. Di questi scontri, diciamo, la politica non ha mai detto niente. Assolutamente. Grazie, Masi, benissimo. Un attimo, sì. Per il genitore d'arte civile, domande da rivolgere. Sì, maresciallo, nell'articolo in questione, lei è fiducia, il maresciallo fiducia, ed è veramente definite delle scorie. Lei ha in mente perché il motivo per cui il generale Sottili, colonnello Sottili, oggi generale, l'abbia definita scoria? Io a livello personale, nel fronte del generale Settino, non ho mai avuto nulla a livello personale. No, ma credo che l'avvocato Gatto le abbia chiesto se ha una, se si è dato una spiegazione del perché il Sottili la possa aver definito lei, il suo collega, una scoria. No, non ci arrivo veramente. Non lo so perché non ho mai avuto nulla di personale nei confronti. Grazie. Lei che valutazione caratteristiche aveva durante il suo servizio prestato alle dipendenze del Corriere Sottili? Assolutamente eccellenti, guardi che presidente, cioè io la sua qualifica finale era? Eccellente, e c'era anche qualche sessione di lode, se non ricordo. Sia il Corriere Sottili che altri superiori in grado. Nello Sottili, se ho ben compreso la domanda dell'avvocato Gatto, era tra i compilatori di queste note caratteristiche. Sì, credo tutti, io sono sinceramente anche se non sono ufficiale, non. No, però comunque partecipava alla compilazione. Forse era l'ultimo revisore. Grazie. Sì. E ha sempre avuto eccellente sempre, sia di Sottili. Sempre. Senta. Ci tengo a sottolineare che tutto il reparto operativo, tutte 150 persone sapevano che io e il colonnello Sottili eravamo in ottimi rapporti proprio per quelle indagini che conducevamo sullo zio del Danti. Invece i suoi colleghi avevano, i colleghi del reparto avevano valutazioni migliori delle sue? Beh, non tutti ovviamente, c'era il punto di prestare servizio da parecchi anni, quindi già soltanto per permanere in quel reparto da anni. Sicuramente c'erano delle note caratteristiche superiori alla media, sicuramente. Ci può spiegare? Non tutti. Ci può spiegare perché secondo lei il generale Sottili, quando scrive il panorama, dice che lei e Fiducia facevate indagini per ritagliarvi le contestuali, per fare i comodi propri, per potersi ritagliare uno spazio per fare i comodi propri. Cosa significa questa? Lei che conosce il personaggio. Dare una spiegazione di questo. Guardi, ci tengo a precisarlo, cioè io purtroppo mi sono anche separato perché la quasi totalità del mio tempo, anche le ore notturne erano impiegate per l'arcivescovo di Danti, cioè purtroppo mia moglie e mia figlia sono andate via da Palermo proprio per questo motivo, perché mi dedicavo esclusivamente al lavoro, soprattutto in quei mesi, in quegli anni. Quindi che io facessi i miei comodi privati, vabbè, che lo provi, perché io purtroppo anche nel tempo di quello andavo in ferie per lavorare, io andavo a... che mi denunci di nuovo, io andavo anche in ferie per lavorare. Non sa spiegarsi perché non sa spiegarsi perché sia stata formulata una valutazione di questo genere, tanto più che lei sacrificava non solo il suo tempo libero, le sue esigenze ordinarie, ma anche le sue esigenze familiari alle ragioni. Sottili lo sapeva tutto, sapeva, mia moglie era andata via di casa perché io stavo giorno e notte fuori nelle montagne, sì. E Sottili lo sapeva, quindi che esprima questi giudizi è assolutamente... Sì. Lei non sa spiegare e comunque trova ingiustificata un'affermazione di questo genere. Altre domande, avvocato Carta? Sì. Cosa significa che, come dice il generale, se lei ci può spiegare che lei ha ritenuto di poter svolgere la lotta Cosa Nostra chiacchiere o riciclando qualche notizia rimasticata? Cosa vuol dire questo? È un'assoluta falsità, perché potremmo pure depositare gli atti, però ce li abbia anche io forse quindi immagino. Cioè, le notizie che io portai sin dai primi giorni dell'arrivo del reparto operativo è la notizia della presenza di Provenzano, soprattutto in quel paese, a Ciminna, in cui quando il generale Sottili ordina di chiudere quell'indagine, subito dopo il dottor Presidino, la magistratura, fa continuare la mia indagine alla Polizia di Stato, e la Polizia di Stato pedina i due contadini a bordo della macchina. Non ci sono soltanto i due contadini, c'è anche Provenzano, quindi che quelle indagini erano assolutamente conducenti alla vettura di Provenzano è provato dalle intercettazioni e dai pedinamenti della Polizia di Stato. E non è una notizia assolutamente riciclata, è una notizia assolutamente nuova, portata da me nell'immediatezza di arrivo a Palermo, che io inizio prima dell'arrivo del generale Sottili a Palermo, e invece all'arrivo del generale Sottili a Palermo lo stesso mi ordina di chiudere. La sua posizione è chiarissima subito. Ci sono anche dei documenti che testimoniano quello che dico io. In caso di necessità li acquisire. Avvocato? Senta, siccome intanto la difesa dell'imputato scalpita per riferirne al giudice, lei è stato condannato in via definitiva per qualche reato? Assolutamente sì, purtroppo. Può spiegare cosa accade e per, cioè, per quale reato è Non è attinente al capo di imputazione. È attinente a farsi gli affari propri. Siccome prevedo, devo prevedere, io come la successione prevista dal codice, devo non solo fare le domande, devo già preparare le risposte, le controrisposte a quelle domande che già so farà la difesa. Quindi, siccome parliamo di che il generale Sottili dice che si tratta di scopi che hanno ritenuto di svolgere, di potersi ritagliare uno spazio per fare i comodi propri mentre i loro colleghi si impegnavano oltre ogni limite, voglio da subito chiarire capisco il suo scrupolo, ma rimetterei questa domanda, rinvierei eventualmente questa domanda e se ti direbbe la domanda è completamente rivolta dal difensore, non sembra rilevante in questo momento. Oltretutto non è detto che una domanda di questo genere sarebbe sicuramente ammessa da altri che la proponessero, diciamo. Comunque aspettiamo almeno che venga proposta. Va bene. Senta, le risulta che Sottili e i suoi uomini siano stati mai minacciati con le armi da qualcuno? Sottili o fiducia? No. Sottili. E leggo nell'articolo. Chiedo scusa. Sì. Dice, io e i miei collaboratori, che non hanno mai avuto paura né di latitanti né di fucili, abbiamo smantellato una formidabile, eccetera, eccetera. Le risulta che Sottili e i suoi collaboratori abbiano mai avuto fucili puntati? Che io sappia, no, il maresciallo Fiducia, insieme al suo ufficiale, sì, invece. Sì, e questo chiederemo a lui. Senta, un attimo solo. Spieghi ai giudici proprio per prevenire una questione. La ricerca dei latitanti era svolta solo dalla sezione catturandi o anche dalle altre sezioni? Guardi, io avevo chiesto di essere inserito alla sezione catturandi, in quell'epoca diretta da un altro ufficiale. Proprio per una questione. Scusi, l'avvocato mi ha chiesto. Sì. Questi risultavano anche da altri settori. Sì, stavo dicendo il mio caso perché io stavo in seconda sezione, non la catturandi, ed avevo dei decreti a firma della DDA che usava la cattura di Provenzano. Sì. Come la privata è facile immaginare, diciamo. No? Quindi veniva svolta da lei anche se non stava nella sezione catturandi? Assolutamente sì, insieme ad una squadra creata da me e da un altro sottufficiale, sì. Va bene, io non ho altre domande. Grazie, avvocato Colonna. Senta maresciallo, il 2 di maggio del 2013 è stato pubblicato un articolo da parte della mia produzione documentale presidente del Corriere della Sera, dove viene riferito l'episodio in cui lei si butta dietro la siepe. Ricorda? Vuole prenderne. Non lo ricordo, sinceramente non ce l'ho. Posso prenderlo per fare proprio quello che è stato depositato, per farglielo leggere, magari lo leggo io la parte che è stato delucidato nella mia produzione del centro originario, no? Sì, si vedrebbe originale. Guardi, se posso cercare lo stesso, così ti conoscerà l'altro. Certo. C'è una copia? No, se è possibile lei, la ho trovato qua l'articolo del Corriere della Sera, l'episodio della siepe, se lo può, lei lo può vedere, se no lo leggo io, se si fida dico glielo leggo io, dico, se no se lo legge lei. Posso prendere la prima pagina? Sì, certo, no, è l'articolo del 2. Sì, no, sto leggendo. Se vuoi lo leggo io, se no glielo leggo. Questione scritto da Sigifrido Lanucci, che ovviamente non è Saverio Masi. Il riferimento si dovrebbe fare proprio alle denunce fatte da Masi, perché Masi parla di questo episodio delle proprie denunce. Non vedo perché devo fare il confronto con quello che è uscito sul Corriere della Sera. Non lo so, io non so qual è la domanda che l'avvocato Colonna si riserva di fare, per il momento non è stata fatta. Perché se non si ricorda l'episodio di Opartiera. Parto secondo, diciamo, l'articolo è un pochino lungo. Lei ha presentato la denuncia presso la Procura di Palermo in data, se lo ricorda? No, non lo ricordo, però ci sono gli atti. Sì, ecco, la denuncia del 2 maggio del 2013. Non lo so, però, se... Lei ha elementi per dire sulla base di quale dato il giornalista Lanucci il 2 sera... Non pongo. No, una domanda. Un attimo, scusa. Abbiate pazienza? No, Presidente. Sì. Voglio spiegare la rilevanza di questa domanda. Il generale Sottili ha riferito al dato per giudizio. Stavo per dire che prima di opporsi alla domanda occorrerà che essa sia formulata, certo. Anche perché altrimenti loro conoscono a menadito tutti gli atti, evidentemente noi non conosciamo nulla, perché non sono in condizione di sapere né qual è la domanda proposta né certo. Perché dell'opposizione. Allora, faccio l'azione. Lei ha presentato la denuncia il 2 maggio del 2013, no. Lei ha elementi per dire a sua conoscenza sulla base di che cosa il giornalista Lanucci, il 2 sera nell'articolo, diciamo, del Corriere Online e il 3 mattina nel giornale nazionale, diciamo, cartaceo, sulla base di che cosa ha riportato l'oggetto della sua denuncia in un giornale, diciamo, nazionale. Grazie. Se ha elementi per dire come mai il giornalista di Russi sapeva di questi fatti. Grazie. Lei si oppone all'avvocato Carta alla c'è un processo penale su questa questione. A Pari non è pertinente con questo, perché stiamo parlando della diffamazione di Sottili a Masi, non di Masi a Sottili, quindi non vedo la perché dover sapere che il giornalista ha avuto e dare informazioni su questioni che sono oggetto di altri giudizi. Grazie avvocato, ritengo irrilevante il fine del decidere. Presidente, non dico per questo, anche per le domande successive, voglio fare una precisazione sul capo di imputazione. Il colonnello Sottili, generale Sottili oggi, ha dato dei giudizi, spesso dei giudizi in sede di comunicato stampa, dopo che il 2 maggio, ho indicato tutte le altre date, l'11 maggio, il 16 maggio, il 17 maggio e poi la trasmissione di Santoro, è stato etichettato lui con i suoi ufficiali, che lui comandava all'epoca del reparto investigativo di Palermo, quali soggetti favoreggiatori di Bernardo Provenzani e Matteo Messina Denaro. I giudizi che il colonnello Sottili in allora esprime commentano le notizie giornalistiche diffuse che, secondo queste giornalistiche, riguardavano la denuncia di Masi e di Fiducia. Quindi io ho interesse ad esplorare in questo momento, dopo che il Tribunale Ministero ha appunto fatto il suo esame da parte civile, il tema, secondo il quale a mio giudizio rilevante, di capire, far capire soprattutto al Tribunale, perché io lo so, perché far capire al Tribunale che quei giudizi il colonnello Sottile li ha espressi sulla scorta di quello che è stato scritto dal giornale, e quindi a me interessa fare una sorta di replica, diciamo. No, ti dico, perché siccome lui dice questo fatto della siepe non è vero, cioè, intanto è scritto sul giornale, è scritto che lui si è nascosto dietro la siepe in occasione dell'avvistamento di Matteo Messina Denaro. Io vorrei capire, il giornalista Sigifrido Lanucci, questa notizia è vera o non è vera intanto? Così, se lui mi risponde, che è stata ripubblicata sul giornale del Corriere della Sera. Allora, lei sa spiegare come mai nella stessa data e la sera stessa il giornalista avesse, e questo è il senso della domanda, sì, avesse notizia del suo atto di denuncia? Presidente, io faccio il carabiniere, ho tentato di fare il carabiniere. Sì, sono, questo lo sappiamo. Io non ho delineato le mie generalità all'inizio di questo interrogatorio. Sì, mi chiamo Saverio Masi, non mi chiamo Sigifrido Lanucci, non bisognerebbe chiederlo a lui. Non saprei cosa rispondere. No. Non faccio giornalista e non è nemmeno la mia ambizione. Più semplicemente, basterebbe dire, poi penso non che faccio giornalista, dire, non faccio giornalista, non so cosa dire, giornalista, lei non fa giornalista, lo sappiamo, dico, ma forse sarebbe più semplice dire non so spiegare il perché. Non posso essere nella testa di un giornalista. Intendo la sua risposta come impossibilità di rispondere. Assolutamente, non lo so. Assolutamente, sono giornalista. Lei ha parlato con il giornalista Ranucci di questa vicenda? Grazie. Questo è oggetto di altro giudizio. Io mi ho assistito a non rispondere. Grazie. Ah no, ma rispondo pure, se proprio avvocato. No, però non è... Non trasformiamo il dibattimento in una sorta di dialogo dalle parti, perché altrimenti non si capisce più. Rispondere se la domanda viene messa, se non viene messa. L'episodio riportato dal giornalista il 2 maggio, che lei sarebbe buttato sotto una siepe vedendo Matteo Messina Denaro, è un fatto vero o un fatto non vero? Ha già il signor Masi ha già risposto alla domanda spiegando il perché si era occultato dietro questa siepe. No, ma è un fatto diverso rispetto a quello che dice il giornalista, cioè lo faccio spiegare bene, perché è questo. Allora, sinteticamente, in condizioni di l'ho già detto prima, non è quello, l'ho già detto all'inizio quello, quando mi ha interrogato il Piaggio. Non è quello che si chiama quanto già riferito il giornalista. Volevo sentire, commenta, quel fatto letto sul giornale. Si richiama poi. Perfetto. Senta, lei a proposito di Matteo Messina Denaro ha detto che avrebbe relazionato, è stata depositata la relazione di servizio che avrebbe lei redatta in data 2 maggio del 2004, che avrebbe depositato il 2 maggio del 2004, la relazione dovrebbe essere il 14 marzo, quella a mia disposizione, 14 marzo 2004. L'avvistamento di Messina Denaro quando sarebbe avvenuto rispetto a quando lei ha redatto relazione? Sì. Sì, esattamente, non lo ricordo esattamente, però nella relazione di servizio c'è sicuramente riportato il fatto che io avessi già oralmente avvisato di quella situazione i miei superiori, cercando anche di fare delle indagini in immediatezza, indagini che io feci subito, nell'immediatezza io quelle indagini le svolsi anche prima di andare da Bagheria a Palermo, io subito avevo già fatto delle indagini. Grazie. Non so dove vuole arrivare l'avvocato, però questo è chiaro. Voglio arrivare a questo. La discussione la facciamo dopo. Quanto tempo che lei ha visto Messina Denaro avverte il capitano Iulli? Cominciamo da lui. Sicuramente non l'avvisai quando gli consegnai il servizio, che il capitano Iulli non volle vistarmi, lo avvisai sicuramente parecchi giorni prima. No, scusi, prima di cosa? Gliel'ho già detto, avvocato, lo ripeto di nuovo, io avvisai il capitano Iulli sicuramente parecchi giorni prima della consegna per iscritto di quella relazione di servizio, e quella relazione di servizio fui costretto a consegnarla, visto che nell'immediatezza dei fatti io iniziai l'attività di indagine con apparecchiatura dell'arma dei carabinieri, apparecchiatura che non poteva nemmeno uscire dal reparto operativo, perché bisognava sia del visto del comandante di sezione che teneva quelle apparecchiature, sia del visto del capitano Miulli, sia del visto del colonnello Sottili. Quindi loro sapevano che io avessi già in tempo reale, nel momento in cui avvistai Matteo Messinaro, avevo già uscito dalle apparecchiature per la ricerca di Matteo Messinaro fuori dal reparto operativo, da una città a un paese a 30 km da Palermo. Grazie. Quindi loro sapevano già direttamente, Presidente, la mia domanda è diversa. Rispetto alla data, al momento in cui lui vede Messina Denaro, X, il capitano Miulli, il suo superiore, quando lo avverte? Quanti giorni dopo, quante settimane dopo? Già risposto. No, non lei non mi deve dire prima rispetto all'8 marzo. Lei, quando vede Messina Denaro e quando relaziona informalmente al suo comandante? In condizione di indicare se è trascorso e quanto tempo è trascorso. Giorni. Non posso raccontare di quello che è successo anni fa, cioè, stiamo parlando di 13-14 anni fa. Di sicuro rispondo esplicitamente, di sicuro io, avendo tirato fuori una telecamera e un'apparecchiatura di registrazione per visionare il luogo dove avevo visto Matteo Messina Denaro, che era di proprietà dell'arma dei carabinieri, che era in dotazione dell'arma, il colonnello Sottili e il capitano Miulli sapevano subito in tempo reale che io avessi quell'apparecchiatura per la ricerca di Matteo Messina Denaro. Grazie, altre domande? Sì, ok, la sua risposta. Senta, un'altra cosa, quando lei ha redatto una relazione che noi abbiamo, che è acquisita agli atti, quindi il tribunale ne dispone per la lettura, in quella relazione ha detto di aver visto Messina Denaro o ha detto di aver visto una persona che assomiglia a Messina Denaro? La leggeremo. Ecco, nel corso dell'interrogatorio del 13 novembre del 2013, lei ha detto è una contestazione. Allora, ho riconosciuto in quell'uomo, seduto alla guida della Tingo, che atto sta leggendo? Il verbale di interrogatorio reso alla Procura Militare di Roma nel corso di queste indagini dal maresciallo Masi al pubblico ministero, dottoressa Masala. E la domanda qual è? La domanda è questa. Di assunzione di informazioni, sì. Ecco, allora, sì, allora qual è la domanda? La differenza che voglio fare evidenziare è questa. Sì. Nella relazione che lei dispone, come ha fatto fare giustamente la domanda, che poi risponde, sì. Mi ha fatto fare la domanda, c'è scritto una certa cosa. Nel verbale del dibattito delle somme di informazioni ce n'è scritto un'altra, cioè che lui riconosce, e lo ha detto anche oggi, in quell'occasione il latitante Messina Denaro. Vorrei capire perché nella relazione scrive una cosa e nel verbale di sommare informazione oggi dice che di averlo riconosciuto questa. La ritengo rispetto ai fini del decidere la domanda. Grazie. Lei ha spiegato che ha ritenuto offensivo l'etichetta di personaggi discutibili riferito a lei, al maresciallo Fiducia. Io mi limito alla sua persona. E ha detto che non si è dato una spiegazione della ragione per la quale il colonnello Sottile l'ha definita tale. La domanda è questa: lei a quella data, quando ha fatto la denuncia, era già stato sottoposto, era già stato condannato per il reato di truffa? La domanda è generica, non entrerò nel merito per tranquillizzare, tanto c'è la sentenza di condanna, che non è che io... Allora, voglio sapere se a quella data il giudizio del colonnello Sottili, del 2 maggio, del 23 maggio, il maresciallo Masi era stato... già condannato per il reato di, ovviamente, per il reato di truffa. Grazie, avvocato. Siccome si tratta di fatti che hanno un sicuro riscontro documentale, il dato testimoniale è ininfluente. Abbiamo dato precise da raffrontare. Io ho la sentenza della Cassazione, no? Quella di primo grado, quindi dovrei chiedere al tribunale di... Ove di necessità l'acquisire. Come di necessità l'acquisire. Sarebbe molto più semplice, lo chiedo. Abbia pazienza. Laddove la via documentale è una, la via testimoniale è altra. Senta un'altra cosa. Lei ha ritenuto offensivo ritenere la frase, il giudizio del colonnello Sottile suo nei confronti di Fiducia, di scoria del nucleo investigativo. E non si è data una risposta. Può riferire al tribunale la ragione per la quale lei, intanto, quando è stato allontanato lei dal nucleo investigativo? Sì, è stato vicendato quel servizio. Ma guardi, bisogna pure andare a vedere formalmente, per iscritto, chi ha chiesto di andare o chi ha cacciato chi. Sa di fatto che io ormai lì non potevo seguire nessun tipo di attività di indagine, soprattutto su Matteo Messina Denaro. Quindi bisogna andare a vedere il suo trasferimento da risorgere. Siccome l'avvocato parla di allontanamento, quasi come se mi mettesse le parole in bocca, io dico bisogna andare a vedere chi è stato allontanato e se io ho chiesto di andare via. Dobbiamo parlare in termini amministrativi, allontanare lasci perdere i termini, si limita a rispondere alle domande come io le ammetto. Sì. Il suo trasferimento da quel reparto è avvenuto quando? Credo, ma non ne sono sicuro. Fine. Anche questo potrebbe essere documentalmente provato. Sì, sicuramente è provato, credo, fine 2008, ma non ne sono sicuro. Grazie. Quando è stato lei trasferito, il colonnello Sottili era ancora a Palermo oppure era stato già trasferito da Palermo? Se lo ricordo, comunque. Era ancora lì. Io vado a Tentoni. Ricordo che sicuramente c'era al reparto operativo il suo vice, lo stesso il maggiore Cosciu, che era sempre stato con lui il suo vice. Per come lo sottili non lo ricordo. Non lo ricordo, grazie. Ricorda invece l'ufficiale, il comandante del reparto operativo che ha disposto il trasferimento? No, il trasferimento arriva dal comando regione. Chi era nel 2008 il comandante del gruppo investigativo? Eventualmente l'avvocato lo ha fatto. Ma è un nostro d'Este, Presidente. Come? È un nostro d'Este. Io sì, ho capito. Domani lo sentirò chi è, le ragioni. E allora lo chiederemo, cioè, a lui direttamente. Ma la domanda è preliminare a chiedere che rapporti aveva col colonnello Benincasa Manucci. Posso rispondere? Aveva, cioè, particolari rapporti con questo colonnello? Ce l'aveva con lui, non lo so. Cioè, io al aveva particolari rapporti con questo colonnello, che erano no, io ho chiesto a colonnello Mannucci, perché questa è la domanda che mi fa. Io ho chiesto a colonnello Mannucci, visto che mi trovo in una situazione di mobbing con Sottili precedentemente e con Cosciu in quel momento, di continuare almeno l'attività di indagine su Matteo Messina Denaro. L'attività di indagine è già iniziata. Siccome era il mobbing, io chiesi a Colonello Mannucci, no, sto rispondendo sinteticamente, chiesi a Colonello Mannucci di finalmente avere lo spazio che avevo prima, per avere tutta risposta. Dopo qualche settimana mi arriva l'avviso di garanzia per una storia che sta accennando. Vabbè, grazie. Altre domande? L'avviso di garanzia gliela mandate il Colonello, cioè. Altre domande, grazie. Se ci sono. Sì. Vedete? Non faccio tutta un'altra serie di domande, perché non ammettendomi questi non voglio infastidire. No, ma non ci voglio infastidire, noi abbiamo, lei mi deve dare atto. No. Sto cercando di rispettare le norme del codice relative alla connessione con le domande, con il capo di imputazione. Sì, però ti questa spiegata la vicenda Cimina, è stata spiegata l'avvistamento iniziale. Io, per la verità, Presidente, parlano per me gli atti processuali che ho depositato, dico sulla. Dato che lei, giustamente, insomma, meglio di me, conosce. No. Dico, andiamo allora a un altro discorso. Lei dice che Sottili non condivideva le sue impostazioni per la ricerca dei latitanti, giusto? Ha detto che Sottili non voleva che venissero fatti dei pedinamenti. Questa è la domanda, è stata fatta al pubblico ministero, penso che posso fare questa domanda. La domanda è questa: Sottili perché non voleva che certi pedinamenti venissero effettuati? Gliel'ha spiegato più volte. Pensa a spiegarsi questa circostanza? Non me lo spiego, è assolutamente illogico, perché il colonnello Sottili, anche in altri tribunali, giustifica il fatto che va dato ordine di non eseguire i pedinamenti col fatto che in alcune autovetture dei favoreggiatori c'erano già dei GPS. Il problema è, e questo è quello che ribatteremo noi al colonnello Sottili, non soltanto io, aspramente talvolta, che il GPS non ha una telecamera all'esterno dell'autovettura e che quindi, sì, il favoreggiatore si ferma a 200 metri dall'abitazione probabile di Provenzano, ma non vedevamo chi incontrava, grazie, non potevamo identificarlo, quindi era assolutamente logico. La ragione per la quale il colonnello Sottili spiegava il fatto che non volesse fare praticamente è perché l'auto era dotata di un GPS. Le diceva o le ha detto mai lui o il capitano Miulli altre ragioni per le quali un certo pedinamento era opportuno effettuarlo? Io però, avvocato, devo ribadire quanto detto in esordio e speravo di essere stato chiaro. Le domande che in questa sede possono essere rivolte non soltanto da parte sua, ma da parte di tutti. Ho ammesso fin qui queste domande al corretto per cercare di chiarire un pochettino la situazione di ordine generale. Ma resta il fatto fondamentale. Noi abbiamo il vincolo di come è stata formulata l'imputazione. Le domande non possono che riguardare domande precise sui fatti oggetto dell'imputazione. Quindi l'attività, la condotta eventualmente diffamatoria, il fatto determinato eventualmente attivo. Tutte le modalità operative. Non posso anche altre domande, però voglio dire questo. Il giudizio del colonnello Sottili. Avevo pregato in particolare il pubblico ministero di attenersi a questo, non è stato completamente, Presidente, possibile che ci posso fare, ecco. Però ho l'impressione che siamo, come dire, macinando un'acqua forse non utile. No, no, altre domande. No, ma in base a un mio ragionamento che io non voglio dare nemmeno la sensazione di impedire, tantomeno alla difesa, ma a nessun soggetto processuale le proprie capacità processuali. Ma il vincolo. Ha compreso assolutamente. Se non ci sono altre domande, libererei per me. Va bene così. Grazie, si può comandare. Grazie.